entri nella band. Paolo Vianello, le tastiere. L'alba si incendiò sui binari del tram. Una ragazza mi rubò la mia croce ed altri oggetti punk. Guardo lassù, ma c'è una fotografia. Vengono i tuoi stracci, due cancelli della follia. E questi siamo noi, con il freddo che fa, tra l'incudine di Dio e il martello dell'umanità. Eccoci qui, ripresi dalla TV, scordando la show passata. Che a futuro ci hai pensato tu, ci hai pensato tu. Ma che amico sei, ma che amico sei. Jesus was a good man. Ma che scherzi fai, ma che scherzi fai. Jesus was a good man. Io non ero lì, sono stato via. Non so più dov'è, neanche casa mia, yeah. Jesus was a good man. Scesero dal getto come autentiche star, sotto raffiche di flash. Flash, benedissero la città. C'eri anche tu, in fuga dal pianeta rock. C'erano i tuoi figli con i segni dell'elettroshock. Dell'elettroshock. Ma che amico sei, ma che amico sei. Jesus was a good man. Ma che scherzi fai, ma che scherzi fai. Jesus was a good man. Non ero lì, sono stato via. Non so più dov'è, neanche casa mia, yeah. Jesus was a good man. L'alba si incendiò sui binari del tram. Una gazza mi rubò la mia croce ed altri oggetti punk. Guardo lassù, ma il cielo è una fotografia. Vedo nei tuoi stracci, cioè i cancelli della follia. Ma che amico sei, che amico sei. Ma che amico sei. Jesus was a good man. Ma che faccia hai, ma che faccia hai. Jesus was a good man. Jesus was a good man. Grazie.